Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E poi all'improvviso, ecco, l'insegnante mi ha visto. Mi sento al liceo quando cercavo di nascondermi raccogliendo qualsiasi cosa da terra. Ehi tu, lì in fondo, sì tu, vestita di rosa, vieni avanti. Sono io. Vorrei tirare fuori la giustificazione della mamma. Chi me l'ha fatto fare? Io che divento rossa ancora adesso. Io, alla soglia dei 30 anni, vestita da angioletto senza ali di 1,72 m. Mi chiamo Marta, ho 33 anni, vivo a Milano, però sono nata a Treviglio, in provincia di Bergamo. Quando ero piccola volevo fare la veterinaria ballerina. Giovanni, sei te, mi senti? Ci deve stare in contatto. Non hai sentito pure te? C'è sta dentro uno che so due volte che dice che porta a casa a cena il capo ufficio. Ah, sei te? Ma come lo porti a cena? In autobus? Sta fa spiritoso, sa? So i due. E chi cucina? Io. Ma che sei mattito? Cos'è che vi fa veramente ridere? Provate a pensare alla cosa che vi fa più ridere in assoluto e cercate di capire perché quella cosa vi fa ridere. Il fatto è che probabilmente un motivo non c'è. Non è chiaro che cosa ci faccia ridere e perché ci faccia ridere, i meccanismi per cui le cose ci facciano ridere. È forse più chiaro capire perché le cose ci fanno piangere e per quale motivo ci commuoviamo e quali sono le dinamiche che stanno alla base della commozione e del pianto. La risata è un pochettino più complicata, non si capisce perché. Franca Valeri, ad esempio, ad alcuni fa molto ridere, ad altri meno, perché c'è anche questa cosa che non tutti ridono per lo stesso motivo. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Oggi si parla di quello, si parla di ridere e possibilmente di ridere tanto. È arrivato un racconto di una ragazza che si chiama Marta e che di mestiere fa quello, fa ridere, non ride, ma in teoria fa ridere le persone. E quindi oggi insieme al suo racconto cerchiamo di capire per quale motivo appunto le cose, alcune cose fanno ridere ed altre no, e anche soprattutto perché si dice, o perlomeno si pensa, che le donne facciano meno ridere degli uomini, o che quantomeno gli uomini abbiano più bisogno di far ridere delle donne, forse perché hanno bisogno di quell'arma in più per recuperare dei punti alla vita o per sedurre qualcuno. 349-238-6666 su Facebook Aurora ha scritto: io ho sempre dei dubbi se le persone ridono perché sono divertenti o se mi deridono. Aurora, questo non lo possiamo capire noi. Elisa: la donna che mi fa più ridere è mia nonna. Immaginatevi una piccola e paffuta settantenne bresciana, energica e determinata, è la maestra dei neologismi e ha maniere di dire tutte sue. Ad esempio, quando dal suo negozio per strada non vede anima viva, usa dire: sembra il deserto del Niagara. Qui potremmo andare avanti per ore, chiaramente con gli strafaccioni di nonni e parenti e zii, e vabbè, questo evidentemente non so perché, però fa ridere. 349-238-6666 è la storia di Marta, è la storia del perché ci piace o non ci piace far ridere. Parigi, anno 2006. Ieri ho compiuto 28 anni e oggi me ne sento 5. Indosso un accappatoio rosa shocking, delle pantofole e porto una parrucca riccia bionda, degli occhiali da vista e sono tristissima. Inizia la lezione aperta di clown. Lezione aperta significa che chi vuole può assistere, anche se non è iscritto alla scuola di teatro. Ed eccoli lì, seduti davanti a me. Una quarantina di persone tra i 20 e i 40 anni. La scuola si chiama École Philippe Gollier, adesso ha sede a Parigi, e l'ho conosciuta tramite degli amici che l'hanno frequentata, e poi sapevo che lui era molto cattivo e io volevo che qualcuno mi scuotesse per bene. Io invece sono iscritta, anzi sono fra i 6 iscritti che si devono mettere a schiera sul fondo della sala. Il costume ce lo siamo scelti noi. Qualcosa che ti aiuti a sentirti divertente e ridicolo, era stato il suggerimento. Io mi sento triste, spaventata, imbarazzatissima. E il mio travestimento fa schifo. E in più ho notato un figo pazzesco in seconda fila. Dunque l'esercizio è questo qui. L'insegnante ci fa delle domande, a cui noi dobbiamo rispondere nel modo più creativo e divertente possibile. Se strappiamo una risata, facciamo un passo in avanti. Chi arriva primo, vince. Dopo 10 minuti io sono ancora contro la parete, tutti gli altri davanti a me.

Se, senti, invece, perché le donne fanno meno ridere degli uomini? Se, se è vero, eh? Penso sia vero, Credo sia vero. Però, perché... Allora, io ho una mia opinione, però... Vai, dicela. Allora, la mia opinione è questa, che... prima di tutto l'educazione, quando sei piccolina, che... Le donne vengono, non devi stare così, gambe incrociate, stai buona, stai zitta. Cioè, educazione nei confronti delle bambine proprio, dici? Sì, sì, da bambina. Questo. Poi perché una donna fa fatica a sognare di essere ridicola, cioè sogna di essere bellissima o di fare, o anche come attrice, di fare dei ruoli drammatici che conquistano tutti, vuole essere desiderata, però... però il sogno di essere ridicola non ce l'hanno molte donne. Senti, invece torniamo da là e andiamo avanti. Dopo la scuola in Francia, dicevi, hai lavorato tra gli altri con Paolo Rossi, sì. E quindi facevi teatro con lui, giusto? Facevo teatro, sì, però sempre la parte comica era sempre molto presente negli spettacoli. Immagino. E adesso invece, oltre al sogno di notte di mezz'estate, quindi ritorniamo al grande teatro, ovviamente shakespeariano, cosa fai? Adesso faccio Zelig, di venerdì su Canale 5, facciamo una puntata. E ci spari proprio anche la marchetta, così, Marta, Tutti i venerdì su Canale 5 Zelig con... Oggi, infatti stasera se qualcuno vuole. Stasera cosa? Stasera c'è Zelig? Stasera c'è Zelig, sì. E ci sei tu? Ci sono. Questa sera? Sì, questa sera. E che cosa fai? Che pezzo fai, Zelig? Noi siamo un trio, cioè, ci chiamiamo Sagapò e facciamo questi appuntamenti al buio un po'. Aspetta, Marta, dillo un po' meglio perché non si capisce niente. Allora, siete un trio, siete tu, poi faccio, dimmi gli altri chi sono. Io, Pozzoli e De Angeli. Ok, Pozzoli è quello col nasone? Poi, bravissimo. Ok, ho capito chi sono, vedi che qualcosa lo so. Perché poi il problema di Zelig, perdonami, no? È che è un po' come il Grande Fratello. Tutti dicono, tutti quelli che si vogliono dare aria, io compreso. Ma Zelig, no, guarda, io non lo guardo Zelig. Poi tutti ovviamente conoscono a memoria almeno qualche sketch o qualche battuta. Quindi allora, voi siete in tre e fate, scusami, che tipo di... Guarda, si chiama Speed Date e sono degli incontri al buio. Quindi io sto ferma al tavolino e ogni volta questi ragazzi vengono, mi incontrano. E si ride? Incontrarmi e si ride. Ma avete tipo dei tormentoni, tipo quelli lì, Chietta, Tiana, quelle cose lì? No, ne abbiamo uno piccolino, però preferisco non dirlo. Come non vi... Facci ridere un po'. Marta, scusami, sei di fatto il primo... Possiamo dirlo, Bonini? Sei il primo personaggio famoso che abbiamo. A voi siete qui... Facci ridere un po'. Ma no. Dai, vabbè. Che vergogna. Niente, vabbè. Ricorda la timidezza. Vabbè, allora, okay, allora torniamo alla timidezza e chiudiamo. L'ultima cosa, com'è finita col figo pazzesco che c'era tra il pubblico? Ah beh, questo è un altro racconto. No, vabbè, che ci fai velocemente, tipo. No, sì, è finita bene e adesso basta. Va bene, Marta, sento la timidezza che sale. Allora, stasera ti vedo a Zelig, allora. Sì, chiudiamo il programma, quindi... Quindi tardissimo. Un po' lì. Grazie ancora, in bocca al lupo per lo spettacolo e per tutto il resto. Ciao Marta, grazie mille. Ciao. 349-238-6666, Piero mi scrive, Matteo, ma come non sai chi è Marta? È Ramona la Pantera di Tortona. Se qualcuno mi spiega questa, magari la capisco. Voi siete qui. Marta deve essere una di quelle a cui piacciono le foto un po' artistiche, quelle in cui ci sei e non ci sei, perché nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, basta cliccare sulla mappa e trovate tutto, lei si vede per praticamente un quarto della foto, nel resto c'è un muro grigio, credo però sia in un camerino, immagino, forse il camerino di uno dei teatri in cui lavora. C'è appunto questo specchio e lei si sta fotografando con il cellulare, quindi si vede il cellulare, si vedono le mani, si vede il suo viso, i suoi capelli ricci e due bottiglie di Ferrarelle davanti a lei. 349-238-6666. Allora, André Casaca scrive: la risata per i clown è una conseguenza della loro capacità di assumere la loro stupidità. Il pubblico, rispecchiandosi, ride perché si sente più intelligente. André, professione clown. E poi ancora, il clown non è un pagliaccio. Questo è il nome dello studio che porto avanti da 12 anni. Sono Francesco Tonti di Rimini, collega di Marta. Lavoro sul clown come attore e docente. Ridere è una cosa... Ridere è una cosa seria, mi dice. Ti ringrazio. E poi qualcuno che evidentemente conosce Marta meglio di me e scrive tipo: Marta è quella che Azzelli fa il personaggio di Pino dei Palazzi? Ma no, credo di no. E poi appunto è quella dei Sagapò. È bravissima, Caccia, aggiornati. Sì, la conosco, oltre brava anche bella. A che ora c'è questa super gnocca Zelig? Giordano da Pistoia. Giordano, non lo so. E poi, ma allora, è in Valsesia o a Zelig? Mi chiede Paolo. Allora, Paolo, devo farti presente una cosa. Che di solito quello che vedi in televisione, primo, non è vero. Secondo, non è in diretta. Questa cosa delle donne che fanno o non fanno ridere o fanno più o meno ridere degli uomini è una cosa che, dopo aver letto il racconto di Marta, mi ha particolarmente incuriosito. E quindi ho fatto un po' di ricerche, sono andato a cercare ad esempio delle comiche che, al contrario di quanto pensassi, fanno molto più ridere ad esempio di alcuni uomini. Una di queste è Franca Valeri, ad esempio, banalmente, cercando qui in Italia. Oltre a questo però ho cercato proprio qualcuno che ne sapesse al riguardo e ho trovato un vecchio articolo, vecchio neanche tanto, di qualche anno fa, di Christopher Hitchens. Christopher Hitchens era un autore, per chi non lo conoscesse. Non era solo un autore, era uno scrittore ed era un editorialista anche, americano. Era una tra le menti più lucide e più ciniche anche, ma soprattutto più irriverenti degli ultimi anni. Hitchens è morto poco più di un mese fa, purtroppo, mi pare fosse prima di Natale. E tra le decine di pezzi splendidi che lui ha scritto, ce n'era uno, in particolar modo, che si intitolava proprio «Perché le donne non sono divertenti». E, insomma, dopo un giro di parole anche molto complicato, insomma, il motivo principale, secondo lui, era dovuto al fatto che gli uomini, in media, sono peggio equipaggiati dalla natura per affrontare la battaglia della vita di tutti i giorni. E quindi hanno semplicemente bisogno di sviluppare altre virtù, quale ad esempio il senso dell'umorismo, per poter sedurre le donne, nella fattispecie. Le donne invece non hanno bisogno di ricercare doti particolari per affascinare l'uomo, perché già in sé sono attraenti verso il genere maschile. E quindi, secondo Hitchens, il fatto che manchi l'aspettativa di essere divertenti fa sì che le donne si allenino meno ad esserlo rispetto agli uomini. Poi c'è però un altro aspetto, secondo lui, che impedisce alle donne di non essere divertenti come gli uomini o di non essere in assoluto, ed è proprio la rivalità con gli uomini in questo campo. Cioè lui dice: gli uomini, avendo sviluppato un maggiore allenamento all'ironia, vogliono avere le donne non come concorrenti, ma come spettatori. E in un certo senso, visto che una delle origini primarie dell'umorismo è stata quella di essere il derisore delle autorità, al punto che lui stesso dice l'ironia è stata definita la gloria degli schiavi, ecco, visto che è così, secondo Hitchens si potrebbe sostenere che quando gli uomini si riuniscono per essere divertenti e non si aspettano che tra loro ci siano delle donne, implicitamente ammettono già chi è veramente il capo. Un attimo che chiudo la radio. Ci sono i cetra, poveri decrepitoni. 349-238-6666. Ancora Michele che scrive: Marta è bravissima, l'avevo già notata l'anno scorso. E poi Katia scrive: io invece faccio più ridere di Marta. Boh, Katia, questo non lo so, non sono io, cioè sicuramente non da qui lo posso giudicare, probabilmente qualcuno che è con te in questo momento lo saprà meglio di me. È arrivato sul profilo Facebook del programma ed è col cuore in mano proprio che lo dico, mi riempie di tenerezza questa cosa, la foto di una bicicletta. Questo perché credo lunedì, quindi 4-5 giorni fa, avevamo chiesto di postare sul nostro profilo Facebook, Matteo Caccia, io sono qui, delle foto delle vostre biciclette. Però, caro ascoltatore, come si chiama? Mi dite il nome, perché non lo vedo da qui il profilo Facebook. Margherita, se mi dici come si chiama. Carissimo ascoltatore che hai caricato la foto, non riusciamo ad avere il nome. Roberto, hai caricato questa foto della bici. Tu probabilmente hai ascoltato il podcast di lunedì o di martedì, quando era, e hai caricato la foto della bicicletta. Ecco, sappi che la televisione non è in diretta, ma noi siamo in diretta. Sono le 16:40 minuti e ti ringrazio per averlo fatto. Fate così però, se avete dei video di donne che vi fanno particolarmente ridere, se li avete intesi, se li guardate su YouTube, caricateli sul profilo del programma, così scopriamo quanto le donne fanno più ridere degli uomini. Siamo in diretta e ci siamo anche accorti, come mi ha scritto qualcuno, che c'è stata una forte scossa di terremoto, oppure, e qui c'è il tono polemico, è meglio continuare a ridere a prescindere. Guarda, ce ne siamo accorti e non credo che sia meglio continuare a ridere a prescindere. Credo che il tuo messaggio sia più fuori luogo di quanto non sia tutto il resto. Semplicemente non è successo niente e comunque nel prossimo GR, credo c'è Spezia nel prossimo GR? Oh, sono contento. Quando c'è Spezia io sono tranquillo. Mi dà quella serenità come se niente potesse succedere. 349-238-6666. Io direi che ore sono? Basta. È venerdì. Sono le 16:41:39. Direi, no, Paolino, la base tienila su. Io ringrazio Paolo Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e tutti quelli che hanno reso possibile tutti i giorni e tutti i giorni lo fanno questo programma. La storia di oggi era la storia di Marta e parlava di comicità e di donne. La storia di lunedì è la storia di Roberto e parla della cortina di ferro. A quell'epoca i servizi segreti russi adottavano tutti i mezzi per ottenere informazioni dall'Occidente. Sinceramente non credo di aver fatto nulla di male se ho adottato la stessa loro politica per ottenere ciò di cui io avevo bisogno.